migliore. E il giorno a capire che sognare era un errore, perché di sogni persi ce ne sono milioni. E noi che sogniamo ci sentiamo dei coglioni, perché di sogni persi ce ne sono milioni. E noi che sogniamo riempiamo le prigioni. Stazione sono ormai quasi normali, e il pugno che si alza verso un cielo in rovina, con il piombo sulle spalle, il primo sasso alla vetrina, perché i sogni persi ce ne sono milioni, e noi che sogniamo ci sentiamo dei coglioni, perché i sogni persi ce ne sono milioni, e noi che sogniamo riempiamo le prigioni.